Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Francesca rimane immobile a fissare il suo nome sulla croce. Il ricordo di un aborto che ha combattuto per anni, violato sulla spianata di un camposanto romano e che ieri ha voluto raccontare al TG3. Mi è venuta l'idea così di togliermi il dubbio e di andare a chiedere, quindi ho dato il mio nome e mi è stato dato questo foglio e col mio nome e cognome e con il riquadro e la mappa. Ribadisce di non avere mai dato il permesso all'ospedale per tumulare il suo feto e di avere chiesto ben 3 volte che fine avesse fatto, senza avere risposte. Lei, come altre donne che oggi si accorgono dell'orrore del cimitero Flaminio di Roma, almeno una 30, secondo le telefonate ricevute dall'associazione Differenza Donna, sufficienti per preparare un'azione legale collettiva per sostenere che quelle epigrafi, quelle identità svelate, violano il diritto all'autodeterminazione, alla libertà di molte. La legge nazionale, recepita dalla Regione Lazio, non parla infatti di obbligo di indicare il nome della madre sulla tomba del feto. Violazione su cui anche il garante della privacy apre un'istruttoria per far luce sulle responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti, l'azienda sanitaria locale e l'AMA, la municipalizzata romana competente per la sepoltura. Questo servizio del TG3 già dice tutto, spiega in sintesi quella che è la notizia su cui oggi voglio riflettere con gli ascoltatori. È un tema estremamente delicato in cui è giusto pesare anche i respiri, non soltanto le parole. La sintesi. Una donna si accorge che esiste nel cimitero Flaminio di Roma una zona del cimitero chiamata il cimitero degli angeli, dove ci sono tante croci di metallo. Su ogni croce c'è il nome di una donna. Sotto quelle croce è seppellito, diciamo, il residuo di un'interruzione di gravidanza. Ma sopra quella croce c'è il nome della donna che ha interrotto la gravidanza. Ora immaginate che per qualsiasi ragione di cui nessuno può sindacare, una donna decida, si trovi nelle condizioni di dover interrompere una gravidanza, cioè un atto in sé che comporta un grande peso emotivo, è un atto che può essere compiuto assolutamente ai sensi di una legge che è stata fortemente voluta dal consenso popolare, una legge che è stata ribadita con un referendum popolare, una legge che dà tutte le garanzie di sicurezza, dovrebbe dare, e di anonimato alla donna che intraprende questo tipo di passo. Beh, al di là di questo esistono, e probabilmente non è soltanto il cimitero Flaminio, come sentiremo oggi, dei luoghi che, visti con un occhio assolutamente laico, sono dei luoghi in cui la definizione è dei luoghi macabri, perché vedo nella foto che ho davanti una distesa di croci con dei nomi di donne, ma le donne non sono morte, quelle donne sono vive, quelle donne non hanno nessuna voglia, nessuna intenzione e nessun desiderio che il suo nome sia messo su una croce. Questi sono i fatti. Entriamo poi nello specifico di questa notizia. Lo facciamo con una giovane collega che in questi giorni vedo molto presente, che si sta occupando in maniera investigativa anche di questo tema, che non vorrei toccare oggi con l'accezione dell'ideologia del punto di vista, e un grande rispetto per ogni punto di vista, per ogni sensibilità. Oggi sull'Avvenire, naturalmente, che il giornale dei vescovi italiani, Antonella Mariani, fa un suo punto di vista, che è il punto di vista generale di chi ha una visione confessionale dell'esistenza, e dice: sotto quella croce c'è la dignità a un bambino mai nato, sotto la croce non c'è una cosa, vengono i brividi a scriverlo, un rifiuto, una creatura innocente che non ha potuto nascere, il più innocente di tutti, uno di noi. Questo è il punto di vista di Antonella Mariani, che probabilmente si identifica in questa visione della vita, sulla quale non ho nulla da aggiungere, ma ancora, se così è, viviamo in uno stato laico e una donna ha diritto di decidere quello che vuol fare del frutto di un proprio concepimento, e può anche avere l'estremo e sacrosanto diritto che nessuno metta in piazza il fatto che lei ha fatto questo atto che, ripeto, viene fatto a termini di legge. Detto questo, andiamo ai fatti. Jennifer Guerra, buongiorno. Buongiorno. Jennifer Guerra si scrive per una testata online, The Vision, si occupa di tematiche di genere, di storia delle donne, di temi di femminismo, diritti LGBT. E in questo caso ha fatto un'inchiesta, è andata a vedere in Italia, ha cominciato ad andare a vedere in Italia, quanto il caso del cimitero Flaminio, che ha scatenato, diciamo, la notizia e ha fatto sì che il garante per la protezione dei dati personali abbia aperto un'istruttoria. Abbiamo chiamato il garante questa mattina e ci hanno risposto, ancora non possiamo dirvi nulla, abbiamo oggi aperto l'istruttoria e cerchiamo di capire se c'è stata una violazione della privatezza di queste donne. Tu, Jennifer, che tipo di lavoro e di inchiesta hai fatto? Sì, io in realtà ho cominciato a tenere traccia di questo fenomeno prima della testimonianza che poi ha, diciamo, scatenato e ha portato l'attenzione su questo fenomeno. Ci stavi già lavorando, quindi tu ci stavi già lavorando. Sì, io ho cominciato a fare questa mappa il 18 agosto, che è il giorno seguente alla notizia dell'istituzione di un cimitero dei feti e del corrispondente registro dei bambini mai nati a Marsala. E avevo visto tra i miei contatti Facebook, banalmente, che c'era molta indignazione per questa cosa, per l'istituzione appunto di questo cimitero. Però io, che mi occupo comunque spesso di gruppi religiosi pro-life, diritto all'aborto, diritti riproduttivi, mi ero imbattuta varie volte nell'esistenza di questi cimiteri e mi sono resa conto che era un fenomeno sconosciuto, però nella mia percezione presente in praticamente ogni città italiana. Ecco, perché quindi citi dei gruppi pro-life? Mi spieghi qual è il meccanismo, la dinamica? Sì. Perché una donna va in un ospedale, in una clinica, e ai sensi della legge 194 abortisce, può abortire un'interruzione volontaria della gravidanza entro, diciamo, i 90 giorni, può essere anche un cosiddetto aborto terapeutico oltre i 90 giorni. Cosa accade una volta che ha abortito? Anche un aborto spontaneo, ci tengo a sottolinearlo. Spontaneo, certo. Allora, in teoria qualsiasi operazione viene eseguita dovrebbe esserci un consenso informato, e io ho avuto modo di sentire un po' di donne e questo consenso informato non riporta quasi mai delle indicazioni poi sulla sepoltura del feto, e nei casi in cui questa possibilità appunto venga esposta, di solito viene fatto verbalmente, quindi non c'è insomma, nei casi che io ho avuto modo ma di la legge vedere, cosa prescrive perlomeno in quel caso? Sì. Quale deve essere diciamo, il destino di questo materiale organico? Sì, allora, la legge è il regolamento di polizia mortuaria del 1990, anche se poi ci sono delle differenze a livello regionale, però in generale si può dire che la legge distingue tra i feti con meno di 20 settimane, i feti tra le 20 e le 28 settimane e i feti che hanno superato le 28 settimane. Quest'ultimo caso, parto da questo perché è il più semplice, se il feto è stato registrato all'ufficiale di stato civile, viene considerato nato morto e quindi può essere seppellito come se fosse a tutti gli effetti una persona. E viene seppellito appunto al cimitero e i genitori possono fare un funerale o comunque una celebrazione. Con il consenso naturalmente dei genitori, fa parte, diciamo, della loro volontà espressa di elaborare un lutto di un bambino che non è nato, che avrebbero desiderato, ecco, mi sembra in questo esatto. caso. Tra le 20 e le 28 settimane c'è l'obbligo di sepoltura, però è un obbligo che viene espletato dall'ASL, che rilascia appunto i permessi per questa sepoltura, che avviene ovviamente in modi molto diversi a seconda poi dei regolamenti comunali, dei cimiteri, delle regioni. È molto difficile fare, diciamo, un discorso generale per questo. In questo caso, se i genitori appunto vogliono e desiderano fare un funerale, una celebrazione, possono fare una richiesta entro 24 ore. Quindi i feti tra le 20 e le 28 settimane vengono comunque sepolti, sempre in ogni caso. La modalità cambia a seconda che i genitori desiderino o meno fare una funzione, insomma, un funerale. Ma ancora stiamo descrivendo qua tutti i casi in cui c'è una volontà espressa delle persone, esatto, che diciamo hanno a che fare, diciamo, sì, con questa interruzione di gravidanza. Poi mi sembra che i casi che stanno venendo fuori sono persone che nulla sapevano, non sapevano, sì, che il loro nome sarebbe messo su, esatto, una croce e in un cimitero. Il problema infatti sussiste sotto le 20 settimane di gestazione, perché in questo caso il regolamento di polizia mortuaria prevede che quelli che sono detti in questo caso prodotti abortivi vengano smaltiti dall'ospedale con una procedura che si chiama termodistruzione. Anche in questo caso, se i genitori lo vogliono, entro 24 ore possono fare una richiesta per una sepoltura e occuparsi, insomma, personalmente di questa cosa. Poi devono esprimere una precisa volontà. Esatto. Il problema è che nel caso in cui l'ospedale in cui viene fatta l'operazione sia affiliata a una particolare associazione religiosa che si chiama Difendere la vita con Maria. Ma ecco, ma questo altre. Ho capito. L'ospedale a un certo punto ha quello che viene chiamato un residuo organico, corrisponde a un arto amputato, che è, diciamo, il residuo dell'interruzione, sì, di gravidanza entro i 90 giorni. A quel punto l'ospedale perché lo consegna a delle persone assieme al nome della persona a cui è legato, diciamo, quel prodotto? Sì, questo è quello che bisognerebbe riuscire a capire, nel senso che queste associazioni si fanno riconoscere, fanno dei protocolli di intesa con gli ospedali e vengono inserite negli elenchi delle associazioni di volontariato che collaborano con l'ospedale. La cosa che io mi sono chiesta quando appunto ho capito tutto questo funzionamento, che è anche abbastanza complesso, è a che titolo queste associazioni possono occuparsi di una cosa che è delicata e anche da un punto di vista, diciamo, sanitario, come può essere la sepoltura di qualcosa che in ospedale, anche, lo dico anche se è un po' forte da dire, però è così, verrebbe trattato come un rifiuto sanitario a rischio infettivo. Quindi una cosa che va maneggiata anche con una certa cura. Certo, ci sono dei regolamenti molto stretti. Perché non possono esserci persone che vanno a raccogliere gli arti amputati, le parti espiantate? Parliamo di parti anatomiche. Ho detto, voglio togliere ogni accezione emotiva a questa cosa qua, anche se naturalmente ha delle caratteristiche molto diverse. Perché ci possono essere delle persone che possono andare a prendere la cassettina con tutti i feti, gli embrioni, i residui dell'aborto, ma collegata al nome della persona che l'ha prodotta. Questo è l'aspetto più inquietante. Avvocato Alessandro Del Ninno, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, l'avvocato Del Ninno è un docente dell'Università Luis Guido Carli, esperto appunto in data protection. Lo pregherei di aspettare soltanto un istante, perché dopo la pausa voglio cominciare a sentire con lui e capire cosa in termini di diritto in questa procedura c'è di singolare o se è tutto perfettamente normale. Tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. 800240024, stiamo parlando dei cimiteri degli angeli, termine che racchiude in sé una vicenda molto complessa e di dubbia liceità, almeno dal punto di vista del diritto. Avevamo iniziato a parlare con Jennifer Guerra, che è una giornalista che scrive per la testata online The Vision. Jennifer, soltanto un numero, quanti finora ne hai censiti te di questi cimiteri degli angeli in Italia? È una cinquantina, anche se secondo me sono molto di più, perché è difficile, come dire, che queste cose arrivino alla stampa. Io ho fatto una ricerca banalmente sui quotidiani locali e notiziari locali, quindi magari non fa così grande notizia l'apertura di una nuova area all'interno del cimitero. E quindi la mia percezione è che siano poi in realtà molti di più di quanti ne abbia trovati io. Quindi dietro ognuno di questi cimiteri c'è una convenzione fatta con le ASL, con gli ospedali, con i luoghi in cui le donne vanno a fare l'interruzione di gravidanza, delle persone che si prendono l'onere, anche l'onere, la fatica, l'onere economico di ritirare questi residui di interruzione di gravidanza, andare in un posto, seppellirli, metterci la croce e mettere su questa croce i dati identificativi della donna, che non so per quale ragione possono avere loro. Posso fare una precisazione? Sì, io non sono sicura che tutti i cimiteri che ho censito abbiano questo tipo di convenzione, perché ad esempio nella regione Veneto non c'è l'obbligo di seppellire tutti i feti a prescindere dalle settimane di gestazione, e in questo caso ad esempio è direttamente l'ASL che rilascia tutti i permessi e quindi si occupa anche della sepoltura. Quindi non credo che in ogni caso che ho censito ci sia questa convenzione. Ma anche nel caso di regioni che diciamo che lo svolgono per loro decreto, per loro legge, questo tipo di operazione, mettono sempre il nome della madre sulla croce? No. Allora, io quanto ho avuto modo di constatare io, appunto, in base alle mie ricerche, che non pretendono di essere ovviamente esaustive, di solito viene istituito un registro con dei numeri che corrispondono alla data dell'aborto, quindi in questo modo dovrebbe essere rintracciabile solo dalla persona che ne è interessata. Però io quindi in questo caso è circoscritta, diciamo, l'aspetto di dubbia osservanza del rispetto dei dati personali finora al cimitero Flaminio, che è quello in cui la prima madre, la prima donna, ha scoperto che al di là della sua volontà esisteva la croce con il suo nome. Allora torniamo all'avvocato Alessandro Del Ninno, che ricordo che è docente all'Università Luis Guido Carli e si occupa di data protection. Lei come la vede questa questione, avvocato, con gli elementi che ha a disposizione, che sono naturalmente limitati perché anche il garante per i dati personali ha cominciato adesso a metterci le mani? Ha un'idea che in termini di diritto ci possa essere stata qualche violazione? Sarei attento. Sì, io ho un'idea, nel senso, posso anche rispondere a due delle domande che sono state fatte prima: come fanno le associazioni a inserirsi e perché c'è il nome della donna. Allora, questi sono i due punti. Esatto, sfruttano una falla proprio di quel regolamento di polizia mortuaria di cui ha parlato la giornalista, che all'articolo 7 prevede che entro le 24 ore i parenti o chi per essi manifestano la volontà di dare sepoltura secondo le regole che la giornalista ha chiaramente spiegato. Se i parenti non manifestano alcuna volontà positiva o negativa, in quel chi per essi si inseriscono le associazioni pro-life, le quali si qualificano come se fosse la misericordia che si occupa, non so, dei poverini senza fissa dimora che muoiono e nessuno li reclama, ecco, una cosa del genere. Esatto, però nella legalità, perché queste associazioni, non qualunque associazione, ma solo quelle qualificate al Servizio Sanitario Nazionale e che abbiano stipulato protocolli con gli ospedali, le ASL e i servizi cimiteriali del comune. Quindi alla domanda se senza consenso è legale la sepoltura, senza consenso dei parenti, la risposta potrebbe essere sì. E quindi questo è un primo aspetto che va verificato. Perché? Perché l'aspetto informativo, e cioè se la donna non è mai stata messa a conoscenza che nelle 24 ore aveva la possibilità di esprimere un consenso medico o un consenso alla sepoltura, allora è illegale per assenza della dovuta informazione la procedura. Poi bisogna anche vedere, il garante avrà molta difficoltà, perché noi tutti abbiamo esperienza di servizi ospedalieri dove si sottopongono fogli e fogli, firmi qui e firmi là, può darsi anche che ci sia stata una inconsapevole firma della signora, questo lo appurerà il garante. E questo per rispondere a una prima domanda. La seconda: perché il nome della donna? Allora, non c'è dubbio che c'è un trattamento di dati personali nella pubblicazione del nome della donna sulla croce, che è anche il trattamento tecnicamente più delicato, e cioè la diffusione la messa a disposizione di chiunque passi davanti a quell'area cimiteriale di un nome in un caso così delicato. E poi c'è il trattamento di un dato ancora più delicato, la croce, quello sulla convinzione religiosa. Ora, i bambini nei giardini degli angeli o i bambini mai nati sono circa 200.000 in Italia. La vicenda, che sembra scoprirsi solo ora, nasce nel 1999. E quindi non è detto che tutte le madri di questi 200.000 feti siano cattoliche, quindi lì c'è anche un altro possibile profilo di violazione. Ma, e concludo, non è solo il consenso alla diffusione del dato anagrafico della madre la base di legittimità del trattamento. Dobbiamo ricordarci che il consenso non è l'unica precondizione di liceità del trattamento. C'è per esempio la legge che può prevedere l'obbligo, infatti guarda caso l'ama interpellata ha risposto proprio così: io non ho colpa, la legge, il regolamento del servizio cimiteriale del Flaminio prevede che io debba indicare il nome per consentire l'identificazione della sepoltura. E se voi andate online, io ho fatto anche un tentativo, potete liberamente accedere ai database elettronici sui vari siti web per andare attraverso la ricerca con il nome a individuare la sepoltura. Allora il discorso di violazione, quindi io per della paradosso potrei avere il database delle donne che hanno abortito a Roma dalle croci che sono seppellite lì, dalle croci che sono messe in quel cimitero. Allora, esatto, allora la violazione della riservatezza, anzi direi, come giustamente avete detto nel servizio di apertura, del diritto all'autodeterminazione sui propri dati personali, certo. Dov'è l'aspetto di violazione? È nella violazione del principio, in primo profilo, del principio di proporzionalità nel trattamento. La giornalista ha detto bene, si può fare tutto quanto nella legalità se invece del nome mettiamo un codice, come fa il cimitero di Torino, che è in possesso della sola madre e il passante che passa davanti a quell'area non vede chi è la madre. Quindi sì, perché visto così, guardi avvocato, lo dico come mia impressione personale, poi mi correggerà se non è giusto in termini di diritto, sembra quasi un'azione deterrente, quasi una tortura, quasi una punizione, una gogna per le persone che hanno abortito, e ti metto il tuo nome su una croce così il mondo vedrà che tu hai seppellito e ucciso un essere umano, che non è esattamente così della percezione e della sensibilità generale di tutti. Io sono completamente d'accordo con lei, proprio questo è il principio di proporzionalità che viene violato e che è soggetto alla sanzione fino a 20 milioni di euro, cioè i titolari del trattamento, bisogna vedere tra AMA, tra la unità sanitaria locale, l'ospedale, rischiano una sanzione amministrativa per violazione del principio di proporzionalità. E poi concludo. Potrebbe essere stato violato anche il principio di trasparenza, cioè le dovute informazioni prima di procedere al trattamento che devono essere date all'interessato. Quindi ci, cioè in teoria dovrebbe esserci una sorta di documento in cui c'è scritto: accetti che il tuo nome sia messo in una croce seppellita, infissa in un cimitero in cui c'è il tuo nome insieme a altri. Uno dovrebbe accettare, avere le condizioni, se no io cosa accetto se non so che il mio nome viene messo su una croce? No, in realtà se la legge e il regolamento cimiteriale prevede che ci sia la necessità di identificare la sepoltura, l'interessato dovrebbe essere informato, ma il trattamento dovrebbe prevedere in maniera proporzionata l'utilizzo di un codice e non del nome. Quella diffusione è senz'altro una violazione del principio di proporzionalità, e il principio di trasparenza significa che devo avere tutte le informazioni per avere il controllo sui miei dati. Ecco qual è il punto. Allora mi sembra assurdo che una persona che è mossa anche da principi religiosi, etici, che non voglio discutere, voglia dare una sepoltura a un feto, a un embrione di un aborto, che pensa che lì realmente ci fosse un principio di vita, qualcosa di sacro, e mi sta bene che lo pensi, non possa in maniera del tutto inconsapevole scrive sulla croce il nome di una donna che non conosce, di cui non sa nulla, a cui non ha chiesto nulla, senza pensare che lo faccia per esporre questa donna a una sorta di pubblica vergogna, perché mi sembra strano che io metta il nome su una croce di una donna che non conosco, con cui non ho avuto nessun rapporto, da cui non ho avuto nessun tipo di informazione. Posso assolvere, da bravo cristiano, la persona che crede in questo, un mio atto di pietà di seppellire ciò che rimane da un'interruzione di gravidanza. Ma perché devo metterci il nome della donna sopra? Ci fermiamo solo un secondo. Spero. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Ho deciso, investo i miei risparmi online. Sicuro? Sì, con Poste Italiane. Scegli Poste Futuro Investimenti, l'offerta di Poste Italiane per investire ovunque tu sia. Avrai un team dedicato e la competenza di Moneyfarm per la gestione dei tuoi risparmi. Fidati di chi conosci, affidati a Poste Italiane. Vai su poste.it/postefuturo o chiama l'800 022 000. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poste Futuro Investimenti è il canale digitale per gli investimenti che offre il servizio di gestione di portafogli prestato da Moneyfarm e collocato da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. Il servizio ha un andamento legato alle dinamiche di mercato. Prima di sottoscrivere i contratti, leggi la documentazione su poste.it/postefuturo. Melog. Oggi do poco spazio alle telefonate, me ne rendo conto, ma ci tengo a avere persone che mi spiegano nell'esatta forma qual è l'argomento cui stiamo parlando. Mi sono state proposte telefonate di signore che hanno avuto interruzioni della gravidanza e hanno voluto tumulare il frutto, diciamo, il loro feto nella tomba di famiglia. Sono scelte personali, individuali, nulla hanno a che fare con la non scelta delle persone che hanno trovato il loro nome su una croce in un cimitero senza sapessero nulla. Sentiamo un ascoltatore però, Giorgio da Roma, che ha forse delle informazioni utili. Giorgio. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sì, due cose volevo dire. A me è capitato di accompagnare al cimitero Laurentino di Roma sia una madre e un padre che avevano avuto un aborto spontaneo che seguivamo come centro d'aiuto alla vita, e anche poi purtroppo una coppia di amici che ha avuto lo stesso problema dell'aborto spontaneo. E l'esperienza però è stata bellissima, nel senso, fatemi spiegare un secondo, non è come state trasmettendo voi. Vi è veramente una famiglia, una madre, un padre che davanti a quella tomba riconoscono il proprio figlio e riescono a elaborare anche questo lutto. Ma scusi Giorgio, nessuno mette in dubbio questo, ma è un'altra situazione, però, se mi permette. Qua è una coppia di genitori che voleva un figlio, ha avuto un problema, questo figlio non è nato, è logico che devono elaborare il dolore di questa loro non scelta. Negli altri casi sono donne che hanno fatto la scelta di interrompere la gravidanza o comunque sia non hanno desiderio di questo tipo di elaborazione, e senza che loro esprimessero una volontà diversa il loro nome è stato messo su una croce in un cimitero. È un po' diversa la cosa. Io perfettamente d'accordo, anzi non ho nulla assolutamente da aggiungere nel sacrosanto diritto di fare un funerale, elaborare un lutto, mettere il bambino non nato nella tomba di famiglia, avere tutte le ritualità possibili che noi conosciamo per toglierci un dolore. Ma però capisce Giorgio che è una cosa diversa questa. La giornalista ha preso un errore amministrativo chiarissimo, su quale tutti siamo d'accordo che mettere il nome della madre è una cosa veramente orribile. Questo siamo d'accordo, però da qui non va fatto tutto un'erba un fascio attaccando anche chi è che vuole comunque elaborare il lutto e paragonando questi feti. Ma chi ha detto? Ma scusi Giorgio. L'avete detto nella trasmissione adesso, vi sto ascoltando, lei continua a dire è una condanna delle donne, è come un braccio. Ma come un braccio? Certo. Quasi di bambini, poi lo chiami allo stato fetale, al limite Giorgio, abbiate coraggio. Giorgio, mi scusi, ho fatto una premessa, mi sembra molto chiara, che ho un totale e incondizionato rispetto per punti di vista come il suo. Ho detto questo è un caso molto differente, nessuno dice nulla, sono donne che avevano fatto una scelta diversa rispetto a quella che lei, non la pensano come lei. Questa signora è anche una signora che non si riconosce assolutamente nella religione cristiana. Dice: perché ti messo il mio nome su una croce sotto questa croce il feto che ho abortito, quando mai avrei voluto che fosse seppellito con una croce col mio nome sopra? È un atto di estrema violenza, non faccio di ogni erba un fascio, ho fatto un distinguo molto preciso. Mi sembra chiaro, Jennifer Guerra, o forse ho sbagliato io, ho detto cose che non dovevo dire? No, è stato corretto, anche perché capisco che possa essere un discorso che ha delle implicazioni ideologiche, morali, personali. Assolutamente. Che nessuno mette in discussione. Il punto è che, proprio perché non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, non possiamo pensare che l'esperienza di una singola donna legittima, e tra l'altro che la legge, come dire, asseconda, perché la legge dà la possibilità a chi vuole, chi lo desidera, di seppellire un feto in un cimitero, fare una funzione religiosa, fare ciò che preferisce. Ma assolutamente, per fortuna. Stiamo parlando di una interferenza in una scelta che è molto personale, molto privata, che ha delle implicazioni diversissime da donna a donna e da famiglia a famiglia, perché non parliamo soltanto di aborti volontari, lo ripeto, proprio perché parliamo anche di aborti non scelti, non possiamo imporre a nessuno cose che le persone non scelgono. E il modo di elaborare il lutto di ogni persona, di ogni donna, è molto diverso. E soprattutto non per tutte è un lutto. Questo bisogna dirlo, e poiché fortunatamente siamo in uno stato laico, le convinzioni religiose non possono essere applicate alla legge e non possono essere applicate contro la volontà delle persone che sono interessate da questo evento. Ma esattamente questo, siamo anche in uno stato che permette a ognuno di professare liberamente il suo credo, la sua legge, perché non si vada a sovrapporre a quelle che sono le convinzioni di altri. Queste donne hanno avuto il dolore profondo. La descrizione di una di queste madri che dice: mi sentivo come la sposa nel film Kill Bill di Tarantino, quando è seppellita dentro la bara a vedere una croce col mio nome sopra. Beh, qualcosa di atroce. Nessuno si può permettere di infierire una tortura così profonda a un essere umano. Volevo far concludere l'avvocato Alessandro Del Ninno. Lei ha accennato prima, forse ne è stato colto bene, qual è poi la sanzione per chi viola questo tipo di circolo privato alle persone? Me lo può ripetere esattamente? Se fosse accertato che sono state violate, diciamo, le norme per la protezione dei dati personali, chi rischia che ha fatto questa violazione? Allora, i rischi sono di duplice tipo: di tipo amministrativo, in quanto il titolare del trattamento che venisse all'esito dell'istruttore del garante individuato come responsabile della violazione di quei principi che vi ho detto, la proporzionalità nel trattamento, cioè il non aver messo un codice al posto del nome, per farla facile, o della trasparenza, il non aver dato le informazioni per determinare la consapevolezza della scelta in capo alla madre interessata, che sia l'ospedale, che sia la ASL, che siano i servizi cimiteriali dell'AMA, la sanzione amministrativa può arrivare fino a 20 milioni di euro. Ma c'è anche un aspetto penale che è nel nostro codice della privacy, e cioè facevo riferimento prima alla possibilità di utilizzare come chiave di ricerca il nome delle madri sui database online dei servizi cimiteriali dei vari comuni. Bene, se questa è una diffusione illecita del nome, proprio perché non proporzionato, dell'interessato, l'articolo 167 bis, comma 2, mi scuso del tecnicismo, però prevede la reclusione per il responsabile della diffusione non autorizzata da 1 a 6 anni. Ecco, lo faccio dire questo all'avvocato perché per far capire a quelli che continuano a scriverci e dire non tenete conto della sacralità della vita, che in questo caso siamo di fronte a una possibile violazione di norme del nostro diritto, sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale, e non mi sembra una cosa da sottovalutare. Poi saranno le persone che hanno titolo per farlo che stabiliranno cosa dice la legge in questo tipo di fatto. Ringrazio Alessandro Del Ninno, ringrazio anche la giovane collega Jennifer Guerra. Mi dispiace che il tempo è quello che è, l'argomento meritava un approfondimento maggiore, ma abbiamo cercato di dare tutti gli elementi razionali possibili per stabilire un proprio giudizio su questo fatto. Alla prossima. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.